C'è un momento in cui il testo di una legge, cadendo nel ridicolo da una parte e nel tragico dall'altro, perde ogni contatto con la comunità a cui la legge deve servire, nonché con il linguaggio di cui la comunità cerca di avvalersi. È stata resa nota nei giorni scorsi la vicenda relativa alla misteriosa tomba recentemente scavata nel cimitero di Gioiosa Maria, presumibilmente ridente località nei pressi di Patti in Sicilia. Sulla tomba c'è una lapide, sulla lapide c'è un nome e un cognome, una fotografia e una data di nascita. Perché? Perché il signore cui spetta quel nome e quel cognome è abbacchiato, ma vivo tanto da potersi andare a vedere in faccia sulla propria tomba. Dentro, empiristicamente parlando, lui c'è e non c'è, nel senso che c'è il suo piede sinistro. Gli è stato tagliato tempo fa nell'ospedale cittadino, causa cancrena da diabete, e quando è stato dimesso gliel'hanno consegnato bello impacchettato per portarselo a casa e farne quindi l'uso legalmente corretto, che a quanto pare consisterebbe nel dargli onorevole sepoltura al piede, che non è un'unghia, non è un pelo e non è neppure una tonsilla. Al piede spetterebbe uno statuto ontologico di particolare dignità in quanto parte nobile dell'organismo. E dal momento che la cremazione spetta soltanto a salme in grazia di Dio, nel senso di salme categorizzabili come salme e non come frattaglie, ecco le consecutive necessità di non lesinare in pompe funebri con tanto di baretti in zinco con intarsi e decorazioni per un ammontare di 1.400 euro, carro funebre, sepoltura e lapide, lasciando in bianco la data della morte, non del piede ma dello sfortunatissimo organismo biologico cui il piede apparteneva. Non ho visto fotografie sui giornali e dunque non ho potuto verificare se en cas de malheur sono stati lasciati spazi bianchi per una sepoltura a puntate. Come l'unghia, il pelo, la tonsilla, l'imene non appartiene all'elenco del deperibile di sé da doversi seppellire. Nonostante le categorizzazioni che lo riguardino siano più che cospicue, la storia delle religioni abbonda di normative concernenti la verginità della donna. Artemide, la settatrice dell'Odissea, era vergine protettrice della verginità altrui. La Medusa, che esteticamente non doveva poi essere un granché, a causa di un Poseidone che doveva averci parecchio pelo sullo stomaco, perse ad un tempo verginità e immortalità. Le vestali romane rischiavano la vita, semplicemente. Il Corano racconta di un paradiso in cui i maschi non solo avrebbero a disposizione vergini bellissime dagli occhi neri e dal turgido seno, ma anche una specie di pronto intervento da parte di un dio dei rammenti invisibili che dopo l'uso rifarebbe ogni volta le usate come nuove. Allorché San Gerolamo si fa prodigo di consigli su come educare una vergine, raccomanda di macerarne il corpo con veglie e digiuni e soprattutto di non lavarlo mai. In una forma o nell'altra, anche laddove la verginità è presentata come condizione indispensabile per esercitare i doni della sapienza e della vita, la verginità come costrutto culturale, prima ancora di essere libera scelta o imposizione, è il segno della sottomissione storica della donna al potere maschile. Che gli psicologi del mondo occidentale americano ci spieghino che oggi le giovani generazioni tendono a praticare il loro primo rapporto sessuale leggermente più tardi rispetto alle generazioni di qualche anno prima, non ci deve stupire più di tanto. Gli psicologi spiegano soltanto ciò per cui si sono dati tanto da fare perché accadesse. Voglio dire che più patologizzi la vita di relazione e più questa vita di relazione sarà evitata come la peste. Sarebbe strano il contrario. Le speculazioni ideologiche sul nostro corpo o su sue parti sorgono ovviamente da una mancata consapevolezza in ordine alle categorie mentali che applichiamo nei loro confronti. Innanzitutto, nulla è organo di per sé. Non ci sono etichette o linee di confine a designare dove un organo inizia o finisce. Organo può essere considerato, può essere considerato il cervello, e organo può essere considerato a pari diritto il singolo neurone. Organo in senso proprio significa soltanto strumento e come tale è palesemente associato ad una funzione che a sua volta è semplicemente uno svolgimento cui viene assegnato uno scopo. Non è detto neppure che questa funzione debba essere unica. Perfino al cuore, macchina idraulica per antonomasia, viene assegnata una funzione di ordine biochimico. L'attribuzione di valori, allora. L'attribuzione di valori morali, religiosi o civili a qualcosa categorizzato come organo, siano piedi, unghie, peli, tonsille o i meni, è dunque un'operazione la cui arbitrarietà è fin troppo evidentemente correlata all'istituzione e al consolidamento delle gerarchie sociali. I testi di legge invocati a ratificare questo stato di cose, dovendo fingere una certezza di ordine assoluto, di ordine indipendente, di ordine trascendente le responsabilità del singolo, laddove il risultato è invece affidato all'esecuzione o meno di certe operazioni mentali, questi testi di legge sembrano scritti da dementi e applicabili soltanto in grazia della benevolenza dei più. E tuttavia ci sono e resistono, definendo la parte nobile quella men nobile, quella violabile quella inviolabile, sottoponendosi al più, a qualche ritocco manutentivo per rispondere alle necessità del momento. Per quanto siano zeppi di imposture prima di pensiero e poi di linguaggio, svolgono magnificamente il loro compito in quanto emanazione dell'autorità.